Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Eccoci qua carissimi ascoltatori di Blu Radio Veneto, benvenuti in frequenza, inizia anche questa sera Blu Time Live, la voce che vi parla è quella di Flavio Bilato, insieme a me c'è Maurizio Calzavara, buonasera Maurizio! Buonasera Flavio, buonasera a tutti i nostri ascoltatori! Ecco qua, allora anche in questa serata siamo in compagnia di grande musica che ci arriva in questo caso dalla Liguria, anche se le sonorità non sono proprio liguri, sono un po' più in là, diciamo, verso dove Cristoforo Colombo, ligure doc, era andato per cercare nuovi orizzonti e quindi lì trovò l'America. Ma chiediamo direttamente, anzi diamo il benvenuto a Nima Marì che è qui con noi in questa serata. E allora, fatto buon viaggio innanzitutto, Anima? Sì, grazie, buonasera a tutti. Buonasera, so, non sei sola, anzi so, lo vedo. Non sei sola perché in questa serata che prevede anche una parte di live in versione acustica sei accompagnata da due dei tuoi musicisti, quindi salutiamo anche Luca e Pietro, quindi Luca alla chitarra e poi ancora Pietro al contrabbasso. Ciao, buonasera. Poi buonasera. Avevamo fatto anche uno scherzo in principio a Pietro dicendo no, il contrabbasso non ci sta in radio. Assolutamente è troppo piccola la radio per ospitarlo, in realtà ci stanno e anzi se avete ancora strumenti musicali portateli dentro perché qui c'è posto per tutto. Allora, abbiamo Nima Marì che è venuta a trovarci per presentarci il suo nuovo lavoro, un lavoro datato 2013 che si intitola Woolen Cap, quindi già si assapora un po' quello che è l'inverno che arriverà presentandomi un bel berretto di lana. Cosa vuol dire? Come mai, Nima, hai scelto questo nome? So che nessuno te l'avrà mai chiesto, però è assolutamente da sapere, dico. Non sono poi tanti in realtà. Ah no, bene, si vede che hanno molte altre curiosità in questo caso. Bene. Comunque, Woolen Cap è il berretto di lana. E fa parte di una delle canzoni del disco. Ed è una canzone abbastanza autoironica in cui mi prendo un po' in giro. Perché a volte ho un po' la tendenza a. Per il mio perfezionismo, sì, diciamo, sì. Ad aspettarmi metaforicamente anche in una giornata di primavera, di piena primavera, che arrivi all'improvviso l'inverno. Quindi allora, di sostanza sei negativa. Sono no, ma sto no, scherzando. Negativa, un po' pessimista. Un po' pessimista. Un pochino pessimista. E quindi per e quindi questo... c'è questo cappello di lana, questo berretto di lana che mi porto sempre dietro per ogni evenienza. Quindi pessimista ma previdente. Ecco, benissimo. Sappiamo in questa serata c'è un po' un tempo nuvoloso, prima è piovuto. In Liguria invece da cappello di lana? No, direi assolutamente di no. Ah, ecco, benissimo, quindi siamo contenti almeno di quello. Allora, Nima, noi vogliamo fare ascoltare ai nostri ascoltatori un po' della tua buona musica, perché parliamo, ma dobbiamo affrontare anche l'argomento musicale con gli ascoltatori, con chi vorrà seguirci in questa serata, quindi direi di iniziare subito con un primo pezzo in programma, che è quello che proprio dà diciamo dall'inizio all'album Woolen Cap e che si intitola You Know I Do. Allora direi ce lo ascoltiamo e poi torniamo a commentarlo insieme qui a Blu Radio Veneto. You know I do, but I've been dancing alone while you just clapped your hands right on the beat, and you made the whole world of time to me. Call me anytime, send me a postcard, write me a rhyme, I will make up melody. Why don't you come sing it with me? Singing, you know. sure you got something to share. When your love turns into something real, kiss my lips, show the way that you feel. Oh, I love kissing, you know I do. And I've been missing your lips, but you put off the fire carefully, and you made the whole world too dark to see. You call me, you've gotta call me. Take it easy, but don't take too long. No, call me when you're ready to go crazy. But don't take too long, don't take too long. Radio Veneto. Veneto. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. E ci siamo ascoltati la prima traccia del disco che si intitola Ullen Cap. A cantarlo è Nima Mary con il suo gruppo questa sera in versione ristretta, perché abbiamo Luca e Pietro, poi li sentiremo nella loro esibizione a base di contrabbasso e chitarra. Allora, questa You Know I Do, quindi sai che è così, è una storia di un amore gestito un po' a distanza, se vogliamo dire, ed è un continuo bisogno di avere la certezza che la persona amata è lì, e poi anche un invito ulteriormente a ritrovarsi per stare ancora felici, per stare insieme. Nima. Sì, diciamo che ognuno poi può interpretarla come vuole, insomma. Io scrivo in base un po' alle mie esperienze personali, un po' ci ricamo sopra anche con la fantasia, un po' prendo ispirazione, insomma, da quello che mi circonda, dalle persone che mi circondano, le situazioni. Quindi diciamo che ogni canzone, insomma, c'è un testo, e mi piace l'idea che poi ognuno in questo testo trovi qualcosa di personale, oppure cerchi di costruirsi una storia in base anche un po' alla sua immaginazione, alle sue sensazioni. Quindi certo, sì, ci può essere questo come le tue altro. Canzoni naturalmente nascono in inglese, perché è così che le concepisci, diciamo, e poi naturalmente quella che ti avevamo chiesto noi è una traduzione libera, tanto per capire cos'era racchiuso, perché in molti i testi li seguono, molti altri no, quindi si fanno attrarre più dalle melodie. Allora, qual è un messaggio che vorremmo dare a quelli che si accontentano della musica, che dentro c'è del cuore? Beh sì, se no non si potrebbe scrivere, insomma. Io tutto quello che scrivo ovviamente nasce dal cuore, è un po' un cercare un equilibrio tra testa e cuore, insomma, tra sentimenti, sensazioni, a volte positive, a volte meno, che vengono in un certo senso quasi in senso negativo un po' esorcizzate e in senso positivo invece amplificate, esatto, sì, diciamo, ecco, così, amplificate. Mi rubi le parole di bocca. È la parola giusta, quindi un invito anche per chi vorrà entrare in possesso di Woolen Cap, sapere che c'è all'interno anche i testi. Ci sono, ecco. Compariranno sul sito, perché abbiamo voluto fare una cosa un po' originale, diciamo, e invece che inserire il booklet nel disco, realizzare due booklet diversi e permettere, insomma, chi lo vuole, chi compra il disco, quindi chi lo scarica. Quindi anche personalizzare il disco. Esatto. È assolutamente una buona idea. siccome io sono una famosa ritardataria, mm, però sì, questo booklet ancora non è disponibile sul sito, ma arriverà. Lo diremo anche il arriverà. Sito internet di Nima Marie, perché poi ci sono anche tante tante belle cosine da andare a spulciare, perché diciamo non è solamente da ascoltare la musica di Nima Marie, è anche in certi casi da vedere. A proposito da vedere, sempre legato a questo pezzo, c'è un video. È un video, prima vi avevo chiesto fuori dalla diretta dove l'avevate girato, quindi mi avete detto dalle nostre parti, dalla nostra Liguria, avete sì, detto. Sì, sì, è girato a Cavi di Lavagna, quindi diciamo proprio dalle nostre parti, e su una spiaggia molto, molto bella. La curiosità è che è stato girato a gennaio. Ecco, sì, sì, sì, bene. Sì, sì, in maniche di camicia a gennaio. Quindi... Sì. Tutta diciamo quel relax, quella sì, gioia sì, nel sì, giocare con l'acqua. Era solo per i brividi del freddo. Esatto. Nonostante che si dice da queste parti, perlomeno, che in Liguria c'è un microclima favoloso. Quindi sì, comunque, sì, no, è vero, si stava veramente molto bene. Ma l'acqua, devo dire, non era poi così calda. Però ecco, vi posso consigliare del buonissimo grasso di foca nel caso. Ok, allora proseguiamo con l'intervista a Nima Marie. Musicalmente, sì, Flavio, sì, possiamo sì, dire che questo è un pezzo solare, come un critico ha scritto. Io, sì, mentre il pezzo andava, parlavo con Nima, dicevo un po' alla Eddie Brickell. Mi ricordava molto Eddie Brickell, non so se sei d'accordo. Con i New Bohemians. Sì, The Cycle, il disco più importante di Eddie Brickell. Sì, sì. Da questa aria di gioia, di contentezza, secondo me. Cosa dici, Nima? Sì, diciamo che un po' come Eddie Brickell, in questo disco io ho voluto un po' mixare cose diverse, nel senso che mi è piaciuta l'idea di vestire del... sensazioni magari non proprio positive, appunto, magari anche ci sono canzoni che parlano della fine di una storia o appunto tirano fuori delle sensazioni appunto non per niente solari, però vestirle con una melodia, una musicalità solare, un po' per sdrammatizzarle, un po' anche con forse un po' per malignità, per ingannare. No, comunque diciamo per sdrammatizzare anche. Stiamo vedendo come fa lei, peraltro. L'anima Marie come fattucchiera in questo caso. Un po' strega. Bisogna stare attenti, sì. Benissimo, allora vediamo di rendere magica la serata, appunto presentando anche quelli che sono gli strumenti. Quindi due chitarre, un contrabbasso, per continuare in versione acustica la presentazione del disco Woolen Cap di Nima Marie. E quindi un altro pezzo, ci ascoltiamo Forgive Me e poi torniamo a commentarlo insieme. Qui è Blu Radio Veneto, insieme a noi c'è Nima Marie. Forgive me if sometimes I look at you and I don't know what to say. It's words and thoughts, I got them crowded in my brain. Forgive me cause inside I'm shouting, I'm laughing and crying and gazing at the simple miracle you are. Cause you're so strong like sun at dawn, and you're so vast like summer skies, warm like clover seeds when the new day comes and finds you here, here in my arms, here with me. Forgive me if I'm shy and I do not dare to tell you how I feel. Somehow I'm scared of frightening you with my love. So now, if you really wanna know what I hide behind my silences and sighs, just look straight into my eyes and you'll see it strong like sun at dawn, and see it burst like summer skies, and shameless like the moon, all naked in the night, she finds me here, here by your side, here with you. Oh. Oh. Yeah, Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Ancora insieme con Nima Marie per godersi queste canzoni, queste melodie fino alle 22.30 qui all'interno di Blue Time Live. Allora abbiamo ascoltato questa Forgive Me, che è un folle desiderio, almeno secondo me, secondo la nostra interpretazione, folle desiderio di esternare dei sentimenti d'amore, dove le labbra si muovono lentamente percorrendo le parole che formano il testo, e il testo della canzone, e affollare nello stesso momento il cervello, come si dice in un certo punto della canzone. Però dopo tutto questo non si ha coraggio di dire niente, quindi si vive il momento in assoluto silenzio. Nima, ti è capitato direttamente? Sì, sì, sì. Ah, vedi? Sì, questa direi che è una canzone molto, molto autobiografica, diciamo. Sì, ci sono delle situazioni in cui veramente si è talmente sopraffatti dalle emozioni, da quello che succede, che non si riescono a trovare le parole per, è come se le parole fossero qualcosa che inscatolerebbe, che limiterebbe, sì, qualche cosa che in realtà limitare forse non è giusto, insomma. Quindi va oltre, e il silenzio in questi casi aiuta, quindi il silenzio, sì, non ha limiti in questo caso. Sì, anche se diciamo che il silenzio per una cantautrice un po' va tanto bene. No, insomma, ne va, no, assolutamente. Assolutamente. Bisogna stare attenti. Quindi la cantautrice almeno col deve muoversi, no? Esatto. Vabbè, allora Forgive Me ce lo siamo ascoltati e goduti in versione acustica. Chi vorrà comparare come è venuta in versione acustica e come viene da disco può entrarne in possesso, quindi basta andare nel sito internet di Nima Marie, vogliamo ricordarlo? Sì, che è esattamente www.nimamarie.com, scusate. .com, e mi raccomando anche con la Marie, con la E finale. Esatto, e Nima, sì, come mi piace dire, sì, sì, è anima senza la A. Ecco, okay, vedi, così, sì, no, perché tanti magari dicono Nina, Mina, Nina, Mina, no, no, Nima, no, Nima, anima senza la A, non, ecco, ci si può sbagliare. Tornando a questo pezzo, sì, secondo me la chiave di volta, caro Flavio, è il ritornello, un ritornello che ti prende immediatamente. Certo. Cosa dici, Nima? È stata costruita per il ritorno. Come mai le canzoni sono strabiche, secondo te? Le mie canzoni sono strabiche? Tu le hai definite strabiche. Sì, perché il mio modo di scrivere guarda sempre in due direzioni, due differenti. Direzioni. Comunque è un assoluto fantastico e affascinante strabismo di Venere. In Grazie. Lo spero, insomma, si spera sempre di non essere un po' un fenomeno da baraccone. Certo. Però sì, c'è proprio questo doppio sguardo verso l'interno ma anche verso l'esterno. Come tu giustamente prima hai detto, un doppio sguardo anche musicale, cioè un testo malinconico, una musica solare, come hai detto prima. Sì, diciamo che poi effettivamente, se andiamo poi a analizzare, a sviscerare, c'è molta duplicità in questo disco. Ci sono molti chiaroscuri, zone d'ombra, zone di luce che si mischiano, che un po' ingannano, appunto, come dicevo prima. Il contrabbasso favorisce queste zone d'ombra, secondo me. Sì, è alto. È quindi... alto per quello. No, forse non si voleva dire in quel senso, no, esattamente, nel senso della, non propriamente, ma voleva essere un discorso molto più profondo, però io l'ho, c'eravamo fermati lì, l'ho ucciso così. Pietro, di qualcosa secondi, ci sono stati quei due secondi, sì, di silenzio, sì, in cui sono, sì, passate delle balle di fieno. Sì, sì, sì. Le abbiamo gustate tutte in questi, magari poi ricordiamo che i nostri ascoltatori, che questa trasmissione non è solamente da sentire in questa sera, anzi salutiamo sia gli amici che ci ascoltano con le frequenze tradizionali, sia quelli che sono su internet, che stanno navigando e piacevolmente stanno allo stesso tempo ascoltando anche la nostra radio, perché incuriositi dalla musica proveniente da queste frequenze. Per cui allora noi li salutiamo, gli ricordiamo che questa trasmissione, poi così come viene, con tutte le gaffe, le perdite, le varie cosine che si possono sentire dei microfoni e le battutacce, delle battutacce verranno tutte postate su internet, e quindi si potrà ascoltare, diciamo, anche questa versione acustica di alcune canzoni di Nima Marie, devo sempre mettere l'accento finale, e poi naturalmente compararle anche anche, diciamo, e godersele anche nelle versioni da disco. Un disco che ho ripreso in mano perché ci ascoltiamo un altro pezzo, in questo caso diamo spazio alla canzone numero, aspetta che guardo perché forse mi sono sbagliato io, eccolo qua, Never So Bad, che è la track numero 8 del disco, che andiamo subito ad ascoltarci qui, e poi torniamo naturalmente per parlare ancora a Nima Marie. Just talk, and I don't hear a word. I'm just driving, trying to keep myself on the ground, because my legs are shaking, there is something quaking in the bottom of my chest. Not just smile, keep quiet, try to look alright, though my heart is beating much too fast, 'cause I never, ever wanted someone so bad, and I feel so powerless. And I can understand if you're playing a game, or maybe feeling just the same, 'cause I never, ever wanted someone so bad, and I don't know what to do. I'm just sitting here, but you talk and then you smile, and I feel I got something bumping inside. I feel I'm about to lose my mind, and it's the way you tease me, and then you try to please me. It's really driving me insane. Think I'll fall back down, hope you'll catch me in time, and just kiss me, baby, some way, somehow, 'cause I never, ever wanted someone so bad, and I feel so powerless. to sit in here feeling like a fool, like a fool. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Un altro pezzo dal disco di Nima Marie, Woolen Cap si intitola il disco, e questo pezzo, la traccia numero 8, è Never So Bad. Allora, c'era una persona di fronte a te che parlava, continuava a parlare. Ma cosa ti diceva Nima? Eri affascinata o eri un po' angosciata? Ma chi lo stava a sentire? Perché sempre le canzoni, appunto, come si diceva in principio, di Nima Marie, sono sempre molto, come dire, delicate, sentimentali, ma molte volte nascondono anche, come dire, dei tranelli, degli imprevisti. E questo era uno di questi? Sì, sì, volendo sì, direi di sì. Sì, diciamo che ho raccontato appunto questa situazione in cui c'era appunto questa persona di fronte a me che parlava, ma onestamente insomma io non riuscivo a sentire una parola di quello che mi diceva, ero un po' distratta da altri. È una canzone pensieri. Che riprende anche un attimino quello che avevamo detto prima, quindi questo parla però tu non senti, invece prima volevi parlare ma era meglio se non si diceva niente in quel caso, cioè il silenzio andava. Sì, adesso che mi ci fai pensare escono fuori noi strani rimandi. Facciamo riflettere l'artista su quello che ha scritto, quindi bene. Ci rifletterò, sì, questa è un'osservazione interessante. Molto bene, allora parlavo con Luca prima, Luca, diciamo Luca il chitarrista, perché caso, lui sì. ha dato un certo risalto al pezzo. Come l'hai fatto queste sonorità? Con le due elettriche e un'acustica praticamente. Ma sì, quando si è trattato di rivestire il pezzo, di arrangiarlo, abbiamo lavorato insieme e mi è venuta questa idea per il riff portante del pezzo, certo. Poi quasi sempre, diciamo, è la cosa che magari spicca e dà un colore al pezzo. Io l'ho trovato un po' blues, un critico ha scritto è pop, io il pop lo allontanerei, l'ho trovato un po' blues. Sì, non in so questo se caso d'accordo. Sicuramente sì, poi il fatto di utilizzare sotto per delle parti di slide esattamente il dobro, che è questo chitarrone metallico con bello, un bello, che ha un certo fascino, e anche il fatto di utilizzare il violoncello come controcanto, ad esempio nell'introduzione, nei riff, che dà molta profondità alla cosa, forse lo distaccano un po' da, diciamo, dal mondo più pop, più commerciale, diciamo. Bene, allora io volevo chiedere un'altra cosa. Allora le voci in giro dicono che Nima ha cominciato da piccola ed era un piccolo soprano in un coro, però un po' si vergognava forse di cantare, no? E poi era un po' timida, un po' riservata, invece poi c'è stato l'esploit. Allora, com'è nata la Nima come cantautrice? Intanto io sono ancora timida. Sì? Anche se non sembra e non molti se ne accorgono. Loro ridono, ma è vero. Poi se mi si dà confidenza è finita. È vero, no, difatti stiamo cercando di tenerti sulla tua timidezza, sì. Ma tutto in realtà credo sia nato in famiglia. Nel senso che c'è sempre stata in famiglia questa passione per il canto, per la musica, anche se non vissuta professionalmente, ma come gioco. Quindi mio padre, per esempio, ed io inventavamo canzoni, si cantava durante il viaggio piuttosto che ascoltare una radio tempi non avevamo. Sì, no, no, ma è anche bello comunque cantare sempre delle canzoni, magari chiudere per un po' la radio, lo dico anche contro il nostro interesse, no? Però come dire, trovarsi, non adesso perché stiamo ascoltando delle cose davvero interessanti, però magari in compagnia, non so, della propria famiglia o anche di amici, chiudere un attimo la radio e intonare, non so, una canzone a caso, una di Lucio Battisti, tanto per dirne, perché sono sempre quelle che vanno poi, e quindi rinnova un po' l'ambiente. Ma continuiamo, Nima. E quindi insomma la passione insomma per la musica, per la creatività, per il creare anche insomma e la condivisione musicale è stata qualcosa che io appunto ho respirato fin da piccola. Poi c'è anche un po' questo desiderio di mio padre di imparare a suonare uno strumento, cosa che non ha mai fatto e che ha riversato un pochino su di me, e così chiedendomi se a 5 anni volevo andare a suonare insomma il pianoforte. E io ho detto va bene, proviamo, mi è piaciuto molto. Da lì ho continuato un percorso di studi appunto di questo tipo, frequentando una scuola a Monza che si chiama il liceo musicale, e questa scuola obbligava sostanzialmente a partecipare non solo ai corsi di strumento ma anche a dei corsi di canto corale, per cui sono stata obbligata a cantare, a far sentire un po' la mia voce a tutti quanti, ed è vero, lo facevo in maniera molto, molto timida insomma, però riscuotendo così un discreto gradimento. Non eri la classica bambina dello zecchino d'oro in questo caso? No, assolutamente. Io stavo nella mia camera, al mio pianoforte, creavo le mie piccole composizioni per quello che poteva essere insomma l'età. Mi piaceva giocare, insomma, per me era un gioco, un modo di esprimermi, di così tirare fuori quello che avevo dentro. Spesso dico come ci sono tante persone che buttano le proprie emozioni su un foglio, che scrivono, sì, tengono dei diari, piuttosto che per me la musica era lo stesso modo insomma per fare, cioè un modo diverso per fare la stessa cosa. Ovviamente nel momento in cui gli altri comunque ti ascoltano in una maniera o nell'altra e ti spingono, insomma ti incoraggiano, viene poi anche il coraggio appunto e la voglia di farsi sentire. Certo, anche perché sei partito un po' di tempo fa, e anche prima di questo Woolen Cap era uscito anche un EP che aveva già fatto diciamo breccia su, diciamo soprattutto per critiche che avevi raccolto assolutamente in maniera positiva. Era quel famoso EP, ascolteremo più tardi anche il pezzo Come Back, formato da 5 canzoni, alcune delle quali sono anche contenute nel tuo nuovo disco. Sì, c'è stata poi la voglia di riprendere questo lavoro che è uscito tanto tempo fa e che era nato in realtà non tanto dall'esigenza mia di fare un disco, quanto dal fatto che ai concerti comunque ci veniva chiesto di avere qualche cosa poi da poter portare a casa. In quel momento noi non eravamo pronti per fare un disco, un LP vero e proprio, quindi abbiamo deciso di far uscire questo mini CD sostanzialmente, perché contiene solo 5 pezzi, e lo abbiamo poi portato in giro durante i nostri concerti. Devo dire che ha ricevuto veramente un'ottima accoglienza. E anche questo, mi sembra di capire, quello che stiamo ascoltando in questa serata ha avuto un'ottima accoglienza, soprattutto ho visto tante critiche positive che comparano piacevolmente a quello che è appunto l'istinto di chi suona diciamo in America, e quindi sempre con questo folk molto molto ben aperto, diciamo così, che è proprio la tipica musica tradizionale americana, alla quale tu naturalmente ti sentirai molto legata. Sì, è effettivamente un genere musicale che io sento mio, insomma, che ascolto molto, anche se io in realtà penso di fare della musica europea, nel senso che comunque penso che anche se la lingua è l'inglese, se le ispirazioni sono sì, d'oltreoceano piuttosto che del folk anche inglese o irlandese, se vogliamo parlare del disco precedente, penso che comunque sia un disco, anche se la parola non mi piace tanto, però globale, insomma, che vuole riunire dentro di sé tante cose. Non è che neghi la mia italianità, insomma, ma la vorrebbe portare ad un'attenzione più internazionale, più internazionale, diciamo, certo. Sì. E quindi non ti è mai venuta la volontà di fare qualche pezzo in italiano? Sì, in realtà la voglia c'è, ci sto lavorando, non so se prima anche o perché poi... tu sei ligure, Sanremo è là vicino, non è molti chilometri. Sì, in realtà sono una ligure adottata, però sì, è vero, Sanremo è lì vicino, vabbè, vedremo cosa succede, insomma. Vabbè, intanto ti abbiamo messo in testa un'altra idea per un nuovo progetto, Nima Marie. Allora, riprendiamo in mano gli strumenti musicali, che ne dite? Mi dispiace sì. per il controbassista, deve alzarsi, scusa Pietro. Sta mentendo, lo so. Benissimo. Era così comodo. Allora, anzi, torniamo a salutarli, Luca Falonimi e poi ancora Pietro Monticelli. Martinelli. Scusa, Martinelli. Avevo scritto giusto. Non ho letto sbagliato. Allora, chitarra, contrabbasso, Woolen Cap è il disco che ci sta presentando Nima Marie. Questa volta spazio a un altro pezzo. Quale ascoltiamo, Nima? Adesso ascoltiamo Country Road. Eccola qua, Blu Radio Veneto. Country road, I'm driving slow, easy going on my way home. The day is bright, clouds are white, lying up there in the blue sky. Like cats on a roof, they're dozing lazily. I'm thinking of you, baby. Country road, full of bends, the wheel turns easily in my hands. The radio's on and the old song, I turn it up and start to sing along. Pull down the window, let the wind blow in, and all in all, it's been so long since I had time to take time. And I'm feeling so high, and the scent in the air, it's so, so sweet to recognize. And I'm feeling so fine, like a bird in the sunshine, like a bird in the sunshine, I'm flying home, I'm coming home. Band to band and town to town, up and down the hillside, all at once it's all around. I got that thrill here inside, and so I find myself speeding up just a little too fast. The nearer I get, the more I can't wait to hold you, to touch you, to tell you that I'm feeling so high, and the scent in the air, it's so, so sweet to recognize. And I'm feeling so fine, like a bird in the sunshine, like a bird in the sunshine, I'm flying home, I'm coming, yeah, yeah. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Nima Maria, Blu Radio Veneto, per presentarci il suo lavoro, si intitola Woolen Cap. Ci siamo ascoltati questa Country Road, un bel viaggio, un rientro verso casa, tutto tranquillo, ormai non ci sono più pensieri, si ritorna, si ascolta la buona musica e si tengono aperti i finestrini, così per avere ancora più il contatto con la natura senza fare conto al tubo di scappamento che rilascia in continuazione anidride carbonica. Allora Nima, questa canzone, perdonami la battuta. No, ma vedi che c'è sempre il chiaro e lo scuro. Sì, certo, certo. Lo scuro in questo caso è rappresentato dal gas di scarico. Gas. Sì, sì. Esatto. Allora, anche questa canzone naturalmente non ti è venuta a casa, non ti è venuta l'ispirazione, non so, alle due di notte, ma in un tiepido pomeriggio, diciamo, di primavera in questo caso, perlomeno mi sento di dire che l'hai vissuta così. Sì, non mi ricordo in realtà come è nata, diciamo, il pezzo, quando l'ho scritto, come l'ho scritto, però sicuramente il pensiero andava a quei viaggi che facevo dalla mia natia Lombardia, sì, per andare in Liguria, facendo tutte queste strade, tutte curve, e era proprio all'inizio del mio trasferimento appunto in Liguria, in provincia di Genova, che appunto è la mia casa adottiva. E c'è stato proprio un momento in cui in questi viaggi che facevo avanti e indietro mi sono resa conto che stavo andando a casa proprio mentre mi avvicinavo a queste colline e cominciavo a sentire l'odore comunque di casa nell'aria e c'è stato proprio dentro di me questa sensazione di cambiamento, proprio che andando in una direzione piuttosto che in un'altra mi avvicinavo a casa e la casa non era più quella alle mie spalle ma quella verso cui stavo andando. E poi la Liguria, dicono tutti, anche noi che ci siamo anche solo passati, che si respira un'aria totalmente nuova, c'è quel tanto di rosmarino, di basilico, ci sono quelle cose che poi vengono trattenute tutte da quelle belle montagne che avete dietro, che sì, vi appunto rendono così particolari, così stretti, ma così particolari. C'è stato appunto chi mi ha fatto notare che non avrebbe avuto senso scriverla mentre tornavo indietro, perché sì, il profumo tornando verso Milano sarebbe stato tutt'altro. Però insomma, con le code proposte dall'autostrada lombarde, voglio dire, si possono scrivere dei pezzi forse un po' più sì, lunghi, diciamo, per chi è molto ispirato mentre guida ha molto tempo per comporre. Dobbiamo sottolineare una cosa di questo pezzo: innanzitutto non è di Deveriana memoria, perché Country Road era un pezzo di John Denver, e dobbiamo sottolineare il lavoro che ha fatto Luca, che proprio spinge il pezzo, secondo me, spinge la tua voce, spinge il contrabbasso, spinge in tutto, vero Luca? È così. Stasera proprio sviolinata. Sì, esattamente. No, voglio sapere che lavoro hai fatto, un lavoro importante in questo pezzo. Sì, abbiamo colorito la cosa in maniera tale che ricordasse magari quel tipo di sonorità lì, pur facendolo in maniera personale, diciamo, quindi trovando degli arpeggi, degli intrecci tra gli strumenti che fossero originali, delle parti originali, diciamo. Poi, visto che hai ricamato, che hai il pezzo qui dal vivo, caro Flavio, proprio ti sei divertito nel senso positivo del termine. Sì, sì, ma lei lo sa che io poi vado, faccio le mie cose, ha un po' paura anche spesso. Sì. Però oramai non più, perché quello che dovevo fare l'ho già fatto prima. Ne usciamo indenni più o meno adesso. Sì, ma contrabbasso e chitarra acustica hanno favorito l'inserimento della voce di Nima, poi che è andata avanti. Sì, Pietro è l'elemento che è granitico, che ci assicura di essere appoggiati sul tempo e di avere il groove giusto. Certo, hai ragione. Pietro, dici qualcosa? Beh. No, niente, posso confermare quello che ha detto Luca. Di essere granitico. Quando lui esagera da una parte, io guardo lo sguardo di Nima e sembra un po', come dire, fermano. Mi fa da paciere praticamente. Sì, vabbè, non si sa da che parte, cioè se dal paciere, come dicevo lui, o se dal guerrigliero in questo caso. Comunque le note che ne fuoriescono sono comunque assolutamente gradevoli. Allora, ancora spazio alla musica, mentre sono le 21:45 minuti in questo preciso istante, abbiamo già fatto metà della nostra trasmissione. Non si vorrebbe mai finirla, però purtroppo ci sarà anche la parola fine, però ascoltiamoci ancora qualcosa dal disco. disco di Nima Marie. In questo caso diamo ascolto anche a Eyes Shut, eccolo qua. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. E come i nostri ascoltatori hanno capito già da tempo, non tagliamo mai nessuna canzone, quindi non ci parliamo sopra, perché assolutamente ogni cosa proposta nel disco di Nima Marie è assolutamente da ascoltare. E allora, I Shot, questo bellissimo pezzo, ce lo vuoi commentare un attimino, Nima? Questo è una canzone... che racconta dell'attesa, parla dell'attesa, quindi dell'attesa a occhi chiusi, immaginando che accada qualcosa, sapendo quello che sta per accadere, ma è la gioia dell'attesa, quella croce delizia, diciamo, che di leopardiana memoria, probabilmente, per citare un altro ottimista famoso. Sì, sì, sì, Doc. E così, appunto, l'attesa vista, sì, quasi come dolorosa, ma anche come il piacere di assaporare di qualche cosa che si sa che sta per arrivare. Quindi una specie di sliding doors dell'attesa, quindi assaporare, non sapere da che parte si va in quel momento, proprio una sala d'attesa della propria anima, per riuscire un po' a indirizzarla, e nello stesso tempo, come si può dire, si gode dentro, no? Nell'attesa. Sì, anche sapendo dove si va, secondo me questa è un po' la cosa particolare. Aggiungiamo pure questo. Sì, del fatto di sapere quello che si vuole, ma di ritardare un po' questo momento, piuttosto che di così assaporare più a lungo, diciamo, quello che precede, insomma, poi certo, il compimento di praticamente in sintesi, come il semaforo della Formula 1, quando viene il verde pronti per scattare, si aspettano ancora 3 secondi. È vero? Beh, però mentre si aspetta che il semaforo diventi verde, c'è quella sorta di adrenalina, no? Si sa che il semaforo diventerà verde, sì, però sì, c'è quell'adrenalina, quella emozione, insomma, che si carica tutta per poi partire, no? È anche un po' questo. Sentiamo piano piano. Nima Marie ha perso un po' la sua timidezza, speriamo poi la ritrovi nella strada verso casa. E Flavio, dobbiamo sottolineare una cosa. Scusa, sì, Maurizio. Sì, sì. Questo pezzo, che è molto importante, come giustamente tu hai detto, è molto bello, musicalmente il più complesso, sì, ha spinto Rumore a darti 8, sicuramente. Rumore è una rivista mensile di musica alternativa. Nonostante il nome, fa musica. Esattamente. Sì, sì, sì, sì. Cosa dici, Nima? Un bell'otto da Rumore, che di solito non recensisce dischi di questo genere, è una cosa molto positiva. Sì, io sono rimasta davvero colpita e davvero felice, perché comunque... è sempre difficile mettersi in gioco, poi specialmente per un cantautore, insomma, una cantautrice si parla di se stessi, ci si espone molto più, secondo me, di un interprete, e quindi sentirsi giudicati dalla critica bene, in ogni caso bene, sì, assolutamente sì, bene. Devo dire che è andata benissimo, noi siamo contentissimi, io in particolare sono veramente contenta. Quando si ha un giudizio come quello di Rumore, che è una signora rivista, e come dicevi tu, insomma, non è di solito non tratta, insomma, musica come la nostra, è una grande soddisfazione. Diciamo che grandi soddisfazioni arrivano anche quando il Buscadero scrive bene di te, poi ancora il Mucchio, poi Blow Up, sì. Quindi insomma tutti i giornali del settore assolutamente d'accordo su quella che è il tuo modo di fare musica, un modo di fare musica che appunto è iniziato tanto tempo fa su spinta del papà, che però poi è proseguita in varie manifestazioni a cui tu hai partecipato. Tra le varie manifestazioni che io sono andato a leggermi, ce n'è una molto curiosa che ti parla come ospite della Janis Joplin Night. Sì. È assolutamente un evento particolare quello. Sì, noi avevamo partecipato a un concorso, perché insomma all'inizio, per farsi conoscere, ci sono anche i concorsi, sono una bella prova, insomma. E, il mio progetto piacque molto, tant'è che ci chiesero di, pur in realtà non passando la finale, ci chiesero di partecipare a questo evento, la Janis Joplin Night, che si teneva a Savona, calcando un palco che era veramente fantastico, nel senso che è il palco che viene calcato ogni anno da artisti e da artiste internazionali, tipo Patti Smith, oppure ancora Sheryl Crow, Tacche Patti, cambiando genere, insomma, ma diciamo questa serata era all'interno di questo festival che si chiamava Just Like a Woman, in cui appunto intervenivano ospiti di questo calibro, per cui è stata un'esperienza veramente fenomenale, insomma. Sempre comunque il femminile, no? Diciamo, quindi era una serata al 100%. Sì, è proprio un festival dedicato alle donne. Sì. Hai fatto qualcosa di Janis Joplin allora, in quel momento? No, in realtà no. In realtà no. No, perché altrimenti avrei voluto ascoltare la sua interpretazione così dolce di una voce aggressive come poteva essere quella di Janis. Devo dire che ai miei esordi, quando ancora così giravo per le cantine, le sale prova, quelle fatte con i cartoni delle uova, mi dilettavo anche con Janis Joplin. Mi approcciavo. Assolutamente è una buona gavetta anche per aprire un po' di più le corde vocali, basta urlare alla Janis e si è a posto, si amplifica la propria esistenza. Allora, un altro pezzo cosa tocca? Live o in studio? Ho perso la scaletta. Ma noi pensavamo di fare qualcosa di live. Sì, benissimo. E, pensavamo di proporre un pezzo che si intitola Morning Moon, cioè luna al mattino, luna mattiniera. Che bello, ascoltiamolo subito. Chiudo il mio microfono così non parlo più e ascolto questa bella canzone. A Blu Radio Veneto con Blu Time Live, ancora Flavio Bilato, Maurizio Calzavara, Nima Marie, assieme a Pietro e Luca, e quindi questa canzone si intitola Morning Moon. Morning Moon, gazing in through the windows of as I'm sipping my tea alone, I rub my eyes. I'm not so sure you're up there in the sky at this early time of the day. But unexpected things happen all the time to anyone. Morning moon hanging still, twilight's gone and stars have faded. Have you been sleeping too long? And now you open up your eyes, you're in a daze. What a dashing world at this early time. But unexpected things happen all the time, you know. Unexpected things happen all the time to anyone. To morning moon gazing in through the windows of my kitchen. Did you hear everything she said? I haven't told him yet. I haven't told him yet. But when he knows it, he here holding me so tight. Sweet moon, unexpected things happen all the time. You know, unexpected things happen all the time. Thank God, unexpected things happen all the time. To anyone, to anyone, Blue Time Live, Blue Time. Live. E della musica improvvisamente è rimasto solo un flebile suono, perché i musicisti si sono allontanati un po' alla volta. Adesso li reinvitiamo in studio perché abbiamo ascoltato questa Morning Moon, Nima Marie assieme al suo gruppo Morning Moon, questa luna mattiniera, come diceva Nima in presentazione, che è un po' diciamo un'ode alla luna, ma non alla luna notturna in questo caso. Sarebbe troppo facile, ci sarebbe troppo tempo a disposizione, bensì a quella luna che a volte si guarda così anche solo così, di sfuggita, mentre ci si prepara la colazione. Quindi la luna del mattino che appena ci si rigira non si trova già più. Ma allora cosa succede dalla finestra di Nima per avere tutte queste belle visioni? Ma diciamo l'ispirazione per questo pezzo è effettivamente reale, nel senso che mi è appunto capitato una volta, cosa appunto che probabilmente a Milano sarebbe stato difficile che capitasse, di vedere il cielo prima di tutto di vedere appunto la luna nel cielo, in questo cielo dalla finestra, ed è poi in realtà la luna un pretesto. È un pretesto per parlare di ciò che è inaspettato, di tutto quello che di bello e di inaspettato succede nelle nostre vite. A me è piaciuto immaginare anche il punto di vista della luna, nel senso cosa poteva sembrare a questo satellite di vedere noi di giorno. Certo, insomma, meglio questa... che non parli, assolutamente. La luna, no? Okay. Pensavo io, ho detto, vabbè, torno in silenzio come all'inizio. Meglio che meglio che la luna non abbia nulla da dire, ce ne sarebbero troppe. E in un certo senso però mi sembrava di rivedere un po' la luna come la vostra regione, che anche lei è una luna, quando si mette sopra, combaciano insieme, tutto diventa molto molto romantico. Flavio, secondo me c'è una cosa da sottolineare stasera. Prima abbiamo parlato di Luca, adesso parliamo di Piero, perché ha movimentato il pezzo mandandolo verso sentieri molto micelliani, alla Johnny Mitchell, a mio parere. Non so se sei d'accordo, soprattutto nel contrabbasso. Poi Luca ti ha seguito, ma secondo me ti ha proprio portato, cara Nima, ti hanno portato verso quei sentieri molto vicini a Johnny Mitchell, che aveva queste influenze un po' di bossa nova, quindi musica sudamericana. C'era sempre nella musica di Johnny Mitchell il famoso disco Mingus, che non c'entra niente, però il contrabbasso è già un sinonimo di quella spinta che lei ha. Sì, beh, sicuramente, ecco, io Johnny Mitchell proprio l'ho conosciuta attraverso Mingus effettivamente, perché da contrabbassista, e sì, sicuramente ci sono anche sonorità un po' latinoamericane in questo pezzo, ma particolarmente in questo pezzo, nella vocalità di Nima, secondo me si avvicina a quelle vocalità che ha sempre fatto Johnny Mitchell. Non per niente nel disco questo pezzo è registrato con la chitarra classica. Ora sì, Luca, esatto. Dimmi, viene. Luca. Sì, è registrato con la chitarra classica, con poi delle sgranate, delle cose di chitarra acustica sopra per per ampliare per un po' la cosa, insomma, per dare un po' di influenza anche diversa alla cosa. E altra curiosità, in realtà non c'è il contrabbasso nel disco su questo pezzo, ma c'è un basso acustico. Perfetto. Benissimo, come sempre in questa fase di trasmissione si fa sempre la classica domanda, ovvero quali sono gli artisti, diciamo, più famosi internazionali o nazionali che hanno aiutato Nima, ma che hanno aiutato anche Pietro e Luca nella formazione professionale, nel dire questa è il mio tipo di musica? Ma io penso che in parte li abbiamo già elencati. Sicuramente Joni Mitchell ha fatto molto parte dei miei ascolti, ma in realtà come lo hanno fatto, ne hanno fatto parte insomma altri artisti anche meno famosi come Damien Rice, magari per un pubblico più più colto, ecco. E attento. Noi sì, noi sì. Noi sì, noi sì, assolutamente. Come insomma un mio grandissimo idolo che è Bonnie Prince Billy, come si parlava prima di Cat Power o di Jonas Police Woman. Poi in realtà di tutti questi ascolti alcuni secondo me sono rimasti più nascosti e altri invece hanno un po' preso il sopravvento e fanno capolino insomma qua e là, più da un pezzo piuttosto che dall'altro. Poi penso stia un po' all'ascoltatore trovare le affinità, insomma i miei ascolti sì sicuramente sono questi. Chissà dove arriverò insomma prossimamente, visto che ultimamente sto ascoltando veramente tanto blues, quindi vediamo se verrà fuori nelle prossime composizioni o se appunto rimarrà più nascosto. Un marcato blues. Allora anche con Pietro la stessa domanda, tanto per carpire anche nomi nuovi o nomi conosciuti da voi, magari sconosciuti per noi, sì, e per i nostri ascoltatori. Sì. Quando sono entrato nel progetto, ora non ricordo esattamente, forse era il 2006 mi sembra, tra il 2006 e il 2007 quando sono entrato, sono l'ultimo arrivato del progetto e quando sono entrato nel progetto i miei ascolti su quel genere lì non erano molti, diciamo che sono il più ignorante sicuramente in quel settore, perché poi venendo da studi di jazz così eccetera. Però sicuramente sentivo affinità con Alanis Morissette, ma anche con Norah Jones, per esempio. Norah Jones, esatto. Un'altra artista che non abbiamo citato, è più famosa come Norah Jones che più per essere la figlia di Ravi Shankar, no? In questo caso. No, certo. Sì, sì, sì. E Norah Jones, quale magari qualche affinità poteva esserci anche con Nima Marie, seppur con un modo di cantare un po' più aspirato di Norah Jones, mi sembra. Nima, correggimi. Ma non so, devo dire che anche questa è una cosa che mi hanno un artista a cui mi hanno avvicinato molto più in realtà nel mio primo lavoro rispetto a questo. Devo dire che a me sì, Norah Jones piace molto, ma più come esponente in realtà di un genere che come artista di per sé. È forse l'esponente insomma più famoso perlomeno da noi di tutto un genere musicale che in America è molto molto diffuso. Certo. Sì, ecco, io dicevo semplicemente che conoscevo la parte più commerciale di quel genere lì. Certo. Benissimo, un piccolo spazio anche per Luca, per quelle che sono i suoi gusti musicali, le sue provenienze musicali. Ma vabbè, come provenienze musicali, diciamo, io sono cresciuto studiando classica, poi mi sono buttato sul jazz e diciamo i progetti miei, le mie cose sono un po' delle cose a cavallo tra la world music, il jazz, le cose etniche, insomma questo tipo di mondo qua. Però comunque dall'adolescenza in poi in realtà ho ascoltato un po' di tutto, quindi dai cantautori americani a quelli inglesi, alle band inglesi più rock pop, al jazz, quindi dall'altra parte al jazz, alla fusion, cose di questo tipo. Mi piacciono anche molto le colonne sonore, quindi lavori più orchestrali, magari più classici o comunque da film. Il buon Morricone su tutti? Sì, Morricone mi piace molto, sì. E quindi questo comunque nella maniera sia di pensare alla musica che magari di arrangiare, che fare delle cose, ha avuto la sua influenza, insomma. Benissimo, allora adesso mentre Luca parlava io ho preparato il nuovo disco, quindi quello che era l'EP di qualche tempo fa, con cui Nima si era cimentata presentandosi solo col suo nome, diciamo, Nima, e senza farlo seguire al Marie, e quindi stiamo parlando del pezzo Comeback che andiamo ad ascoltare e poi torniamo qui in diretta a commentare insieme. With you. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. E quindi ci siamo ascoltati questo pezzo dall'EP Comeback, un EP formato da 5 tracce, il protagonista era Nima, senza farsi seguire dal cognome appena citato, quindi Nima Marie, come invece qui presente stasera. Allora, Comeback era del 2008, mi sembra, proprio in contemporanea con quella serie di festival a cui hai partecipato, Nima. Sì. Allora, questo comeback è perché tutti ti rivolevano indietro come per fare sentire ancora la tua musica? Ma in realtà questo pezzo è una canzone che è stata scritta in un periodo di tempo molto lungo, perché l'immagine, insomma, che mi era nata era quella dell'aver cura di se stessi quando si è amati da qualcun altro, nel senso che a volte noi ci prendiamo poca cura di noi stessi, ma quando condividiamo la nostra vita con qualcuno è importante farlo, perché è quest'altra persona che ce lo chiede. E mi erano venute in mente, insomma, diverse immagini anche di guerra, piuttosto di chi magari sacrifica la propria vita per un ideale, che lotta, insomma, mettendo veramente a repentaglio la propria vita e diventa un eroe, non so come dire. E il mio pensiero è sempre un po' verso ciò che rimane nascosto, un po' in ombra, e io ho più pensato alla vita di queste persone che invece aspettano. Ritorna anche un po' questo tema dell'attesa, no? che pregano, certo. che sperano che questi eroi, insomma, tornino sani e salvi. Ecco, la canzone in realtà ha dentro questo, come tante altre cose. Poi c'è messo il flauto, è una cosa molto bella, tra West Coast e John Balico Must Die dei Traffic. Alla fine è un po' mischiato, secondo me, sempre secondo me, mischiato nel senso positivo del termine. Il flauto dà un certo fascino a me, secondo il mio parere. Colora il pezzo in una certa maniera, flauto, vero Nima? Sì, gli dà anche un po' di mistero. Esattamente, è un po' misterioso, come i tuoi pezzi, che sono leggermente misteriosi in alcuni momenti. Sì, anche se devo dire che questa è una cosa che nelle diverse recensioni che sono uscite è stata accolta poco, secondo me, e questa cosa mi diverte molto, non la trovo negativa, perché poi secondo me deve sempre predominare e vincere la sensazione di chi ascolta, non quella di chi scrive. Però mi ha incuriosito, insomma, mi ha un po' divertito il fatto che questo mistero sia rimasto veramente molto inosservato, molto e quindi sono in certo qual modo la streghetta che in me è anche soddisfatta. è quella che si citava prima in principio di trasmissione. Allora, un altro pezzo dall'album di Nima Marie che si intitola Woolen Cap, in questo caso Down in My Veins, e poi torniamo per i saluti, perché i minuti sono passati veramente in una maniera velocissima in compagnia di Nima Marie. Choking my imagination. they were finally washed away. Every joy and sorrow, I got it in my blood, deep into my ascoltato un altro pezzo da Woolen Cap, questo ultimo lavoro di Nima Marie, si intitola Down in My Veins, è anche la traccia finale del disco, queste 10 canzoni davvero generose dove si sente che Nima Marie dà proprio il cuore. Questa canzone in particolare ha avuto delle collaborazioni importanti, Nima, vero? Sì, ho avuto il piacere di ospitare un cantautore, un bravissimo cantautore toscano che si chiama Stefano Barotti, che ha partecipato appunto all'arrangiamento di questo disco, dove suona sia la chitarra acustica sia il banjo, e poi un bravissimo pianista blues, Henry Carpaneto, che è anche un caro amico e ci tenevo molto insomma che partecipasse a questo disco, anche se la nostra collaborazione è nata diciamo molto di recente, e infatti questo è un pezzo, peraltro è il pezzo più recente del disco. E che farà parte anche di un'antologia? Sì, farà parte di un'antologia che si chiamerà Anatomia Femminile. E infatti è stato chiesto a me come ad altre cantautrici di scrivere una canzone su una parte del corpo della donna, e di celebrarlo, insomma, o di raccontarlo anche in maniera molto evocativa. E io ho scelto le vene, che sono qualche cosa che, insomma, anche nel blues, sì, se vogliamo, sì, sì, visto sì, che l'abbiamo citato, è qualcosa di importante. Mi è piaciuta l'immagine delle vene come di quell'organo, insomma, che raccoglie un po' tutto, tutti gli scarti, se vogliamo, tutte quelle, quello, noi usiamo le energie e poi tutto ciò che non serve viene mandato, certo, nelle vene per poi venir scaricato, per uscire, venir liberato dai polmoni. Certo, in questo caso si chiamano tossine. Tossine, esatto, bravo. No, lo sto... Però tossine non era sì, molto poetico come termine, quindi non l'ho usato, però è quello che volevo dire, parafrasando era possiamo questo. Già dare un'anticipazione anche di quando uscirà questa antologia? No, perché in questo momento ancora non so, c'è in cantiere molto, nel senso anche un progetto artistico, multimediale legato a questa antologia, però al momento non posso anticipare niente, perché in realtà è ancora tutto da definire come date e modalità, insomma, di fruizione. Benissimo, allora ricordiamo ancora una volta il sito per entrare in contatto con Nima Marie, www.nimamarie, scritto con la e finale.com, oppure cercate su internet, anzi approfittatene ancora perché su YouTube c'è proprio disponibile anche il video ufficiale di quella che è la canzone You Know I Do, che ci siamo ascoltati proprio in principio di trasmissione. Ora, prima di salutarci, un breve cappello su quella che sarà la prossima canzone, che è Blue into White, che riguarda un pezzo assolutamente d'amore, vero Nima? Un pezzo dove l'amore la fa da padrone, anzi si nota nel bel mezzo della canzone che l'amore è anche un'ancora in questo senso, e poi è la voce di un rapporto d'amore molto importante, soprattutto per l'energia che emana, un po' come il vento che però a volte soffia forte. Sì, in questo pezzo c'è dentro veramente tanto, c'è sì questo sentimento, ma anche, volendo tentare un'interpretazione un po' diversa, questa canzone parla anche della fragilità e del fatto di essere preda di questo vento molto forte, che poi potrebbe essere anche la vita, insomma, che con le sue difficoltà. E chi si sente fragile è molto sensibile, spesso si sente un po' sopraffatto, insomma, da quella che è la vita, insomma. Però penso che la fragilità, che in questo pezzo, volendo, si può paragonare alla leggerezza, significhi anche il fatto di poter essere sollevati da questo vento, così come dai sentimenti, dalle emozioni, dagli affetti, insomma, l'essere sollevati e quindi provare veramente delle emozioni che chi a volte è un po' più freddo, un po' più calcolatore, magari si destreggia molto bene nella vita di tutti i giorni, fa più fatica a provare, quindi è anche un po' un elogio della fragilità. Benissimo, allora tra poco ci ascolteremo questa Blowing to White per salutarci, quindi ringraziamo ancora Nima Marie, poi ancora Luca Falomi e Pietro, ricordatemi il cognome, Martinelli, eccolo qua, grazie, per essere stati con noi, grazie, rientro nella vostra amatissima Liguria, quindi ci ascoltiamo questo bel pezzo, allora lasciamo i microfoni aperti per Nima Marie e noi salutiamo, quindi da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara, il solito grande caloroso ciao, buonanotte, dopo di noi ci sarà la classifica rock con Alberto Prisco, naturalmente, grazie ancora e buona serata, grazie e buon rientro ragazzi, ciao, ciao Nima, ciao, ciao. Your voice is the line connecting me with the world outside, your words sound so clear, my ears are open wide. Your voice is the key to understand all that surrounds me. The only way back to reality. Like a boat, I'd be endlessly drifting along. You're my anchor, you keep me safe from the wind when it's blowing too high. And it's blowing too high. Your voice is the code. I used just to make out what I feel. Your voice tells it all and shows me what is real. I wear like a light, it steals away blindness from my eyes. A mirror to see when I'm trying to hide. Just like sand I'd be endlessly drifted away. You're like water, you weigh me down to the ground when the wind is too high. When it's blowing too high. Like a lost balloon I would be feeling this way. You're my hand when it's blowing. When it's blowing too high. Oh, high, high, oh, high, oh, high, oh, high, oh, high. Oh, I'd like this time to lift you up for a while and let you feel the air under your feet, water through your fingers like a wild horse's mane, and then high again. Once you come with me, once you leap and try to leave the ground, with a thin thread you keep me tied to your hand. When the wind is too high, when it's blowing.